Ogni tanto sentivo il rumore dell'ascensore in salita, cui seguiva un secondo rumore, ma non quello che speravo, l'arresto al mio piano, bensì quello, alquanto diverso, che l'ascensore faceva continuando il suo slancio verso i piani superiori e che, avendo così spesso significato la diserzione del mio quando aspettavo una visita, è poi rimasto per me, anche quando non ne desideravo più nessuna, un rumore in se stesso doloroso, nel quale risuonava una sorta di sentenza d'abbandono. Stanca, rassegnata, intenta per chissà quanto ancora al suo dovere immemorabile, la grigia giornata filava la sua passamaneria di madreperla e io mi immalinconivo al pensiero di dover restare a tu per tu con lei, che non mi conosceva più di un'operaia che, installatasi accanto alla finestra per avere più luce sul suo lavoro, non si occupa affatto di chi è presente nella stanza. All'improvviso, senza che io avessi sentito suonare, Françoise aprì la porta introducendo Albertine, che entrò sorridente, silenziosa e grassoccia, contenendo nella plenitudine del suo corpo, pronti perché continuassi a viverli, venuti sino a me, i giorni passati in quella Balbec dove non ero più ritornato. Certo, ogni volta che rivediamo una persona con la quale i nostri rapporti, per insignificanti che siano, sono venuti mutando, è come se due epoche si confrontassero fra loro. Non c'è bisogno per questo che un ex amante venga a trovarci in veste d'amica. Basta la visita a Parigi di qualcuno che abbiamo conosciuto nella consuetudine di un certo genere di vita, a patto che questo genere di vita, sia pure da una sola settimana, sia cessato. Su ciascuno dei tratti ridenti, interrogativi e imbarazzati del viso di Albertine, potevo cogliere queste domande. E Madame de Villeparisis? E il maestro di danza? E il pasticcere? Quando si sedette, ebbi l'impressione che la sua schiena dicesse: «Accidenti, niente scogli qui, mi permettete di sedere lo stesso accanto a voi come avrei fatto a Balbec?» Sembrava una maga che mi mettesse davanti uno specchio del tempo. Era simile in questo a tutti coloro che rivediamo di rado, ma con i quali un tempo abbiamo vissuto più intimamente. Con Albertine, però, non c'era questo soltanto. Certo, persino a Balbec, dove ci incontravamo ogni giorno, vederla mi procurava sempre qualche sorpresa, tanto era giornaliera. Ma adesso si faceva fatica a riconoscerla. Liberi dal vapore roseo che allora li alonava, i suoi lineamenti avevano acquistato un risalto scultoreo. Aveva un altro viso, o, meglio, aveva finalmente un viso. Il suo corpo era cresciuto. Restava ben poco, ormai, della guaina che l'aveva avvolta e sulla cui superficie, a Balbec, la sua forma futura si disegnava appena. Albertine, quell'anno, era tornata a Parigi prima del consueto. Di solito non ci veniva che in primavera, così che, già turbato per settimane dai temporali abbattutisi sui primi fiori, io non distinguevo più, nel mio piacere, il ritorno di Albertine da quello della buona stagione. Mi bastava apprendere che era a Parigi e che era passata a cercarmi per rivederla come una rosa sullo sfondo del mare. Non saprei dire se fosse il desiderio di Balbec o quello di Albertine a impadronirsi allora di me. Il desiderio di lei era forse, a sua volta, un modo pigro, fiacco, incompleto, di possedere Balbec. Come se possedere materialmente una cosa, fare di una città la propria residenza, equivalesse a possederla spiritualmente. E d'altronde, anche materialmente, quando non era più tenuta in equilibrio dalla mia immaginazione di contro all'orizzonte marino, ma immobile, accanto a me, Albertine mi sembrava spesso una ben povera rosa, davanti alla quale avrei preferito chiudere gli occhi per non vedere quel certo difetto dei petali e potermi illudere di respirare sulla spiaggia. Lo posso dire qui, sebbene allora ignorassi ciò che soltanto in seguito si sarebbe verificato. È più ragionevole, certo, sacrificare la propria vita alle donne che non ai francobolli, alle vecchie tabacchiere, persino ai quadri e alle sculture. Ma l'esempio degli altri tipi di collezionismo dovrebbe ammonirci a cambiare, ad avere non una sola donna, ma molte. Le affascinanti mescolanze che si creano fra una fanciulla e una spiaggia, o la capigliatura a trecce di una statua in una chiesa o un'incisione, fra una fanciulla e tutto ciò per cui si ama in lei ogni volta che entra un dipinto incantevole, quelle mescolanze sono relativamente instabili. Vivete davvero con una donna e non vedrete più nulla di ciò che ve l'ha fatta amare, ma, ben inteso, i due elementi disuniti possono essere nuovamente riuniti dalla gelosia. Se, dopo un lungo periodo di convivenza, era destino che in Albertine vedessi solo una donna qualsiasi, un suo eventuale intrigo con qualcuno di cui si fosse innamorata Balbec sarebbe bastato a reincorporare in lei, ad amalgamare di nuovo con lei la spiaggia e il frangersi delle onde. La differenza è che queste mescolanze secondarie non rapiscono più i nostri occhi e al nostro cuore che esse sono sensibili e funeste. Non ci si può augurare il rinnovarsi del miracolo in una forma così pericolosa, ma sto anticipando gli anni e devo dunque limitarmi qui a rimpiangere di non aver avuto sufficiente saggezza per mettere insieme la mia collezione di donne, così come se ne mette insieme una di occhialetti antichi, mai abbastanza numerosi dietro la vetrina, dove un posto vuoto è sempre in attesa di un altro e più raro esemplare. Contrariamente al normale svolgimento delle sue vacanze, quell'anno Albertine arrivava direttamente da Balbec e c'era stata, per di più, molto meno a lungo del solito. Era parecchio tempo che non la vedevo, e poiché non conoscevo, nemmeno di nome, le persone che frequentava a Parigi, non sapevo niente di lei durante i periodi in cui non veniva a trovarmi. Si trattava spesso di periodi assai lunghi. Poi, un bel giorno, spuntava all'improvviso, ma le sue rosee apparizioni e le sue visite silenziose mi rendevano scarsamente dotto di ciò che avesse potuto fare nell'intervallo tra l'una e l'altra, che restava immerso in quell'oscurità della sua vita nella quale i miei occhi si curavano ben poco di penetrare. Questa volta, tuttavia, certi segnali sembravano indicare che qualcosa di nuovo nella sua vita fosse accaduto. Ma forse se ne doveva semplicemente inferire che all'età che aveva allora Albertine si cambia molto rapidamente. Per esempio, la sua intelligenza si faceva notare di più, e quando le ricordai quella volta che aveva sostenuto con tanto calore l'idea di far scrivere a Sofocle «Caro Racine», fu la prima a riderne di cuore. «Che stupida che ero!» aveva ragione André. «Sofocle avrebbe dovuto scrivere «Signore!» Replicai che il «Signore» e il «Caro Signore» di André non erano meno comici del suo caro Racine e del caro amico di Giselle, ma che veramente stupidi, in fondo, erano solo i professori, con la loro pretesa che Sofocle scrivesse una lettera a Racine. Su questo punto, Albertine smise di seguirmi. Non vedeva l'insensatezza della cosa. La sua intelligenza cominciava a dischiudersi, ma doveva ancora svilupparsi. C'erano in lei novità più attraenti. Sentivo, nella stessa graziosa fanciulla che era venuta a sedersi accanto al mio letto, qualcosa di diverso, e nelle linee per il cui tramite, nello sguardo e nei tratti del volto, si esprime la volontà abituale, un cambiamento di fronte, una semiconversione, come se fossero andate distrutte le resistenze contro le quali mi ero schiantato a Balbec, la sera ormai lontana in cui formavamo una coppia simmetrica ma inversa rispetto all'attuale, perché allora era lei ad essere coricata e io accanto al suo letto. Volendo e non osando assicurarmi se adesso si sarebbe lasciata baciare, ogni volta che si alzava per andarsene la pregavo di rimanere ancora. Non era facile ottenerlo, giacché, pur non avendo niente da fare, altrimenti sarebbe schizzata fuori, era una persona precisa e d'altronde poco gentile con me, della cui compagnia non sembrava più dilettarsi. Eppure, ogni volta, dopo aver controllato l'orologio, aderendo al mio invito, si rimetteva a sedere, tanto che aveva ormai passato diverse ore con me senza che io le chiedessi nulla. Le frasi che le dicevo si riallacciavano a quelle dette nelle ore precedenti e non si avvicinavano affatto a ciò che pensavo e desideravo, restandogli indefinitamente parallele. Niente come il desiderio impedisce a quanto si dice d'avere la sia pur minima somiglianza con quanto si pensa. Il tempo incalza, eppure sembra che si voglia guadagnare tempo parlando di argomenti assolutamente strani a quello che ci sta a cuore. Parliamo, mentre la frase che vorremmo pronunciare sarebbe già accompagnata da un gesto, ammesso che, per concederci il piacere dell'immediatezza e saziare la nostra curiosità circa le reazioni cui esso darà luogo, non lo abbiamo fatto ugualmente, quel gesto, anche senza proferire parola, senza chiedere alcun permesso. Certo, non ero affatto innamorato di Albertine. Figlia della nebbia che regnava oltre i vetri, poteva solo soddisfare il desiderio dell'immaginazione che il nuovo tempo aveva risvegliato in me e che era una via di mezzo fra i desideri cui vengono incontro le arti della cucina e quelle della scultura monumentale, giacché mi faceva sognare insieme sia di mischiare alla mia carne una materia diversa e calda, sia di attaccare in un qualche punto al mio corpo disteso un corpo divergente, così come il corpo di Eva aderisce solo per i piedi all'anca di Adamo, al cui corpo è pressoché perpendicolare, nei bassorilievi romanici della cattedrale di Baalbek, raffiguranti in modo così nobile e pacato, ancora quasi come un fregio antico, la creazione della donna. Dio, là, è sempre seguito come da due ministri, da due angioletti nei quali è possibile riconoscere, alate, vorticose creature dell'estate sorprese e risparmiate dall'inverno, degli amorini di Ercolano che, sopravvissuti in pieno XIII secolo, si trascinano in un ultimo volo, stanco ma non indegno della grazia che ci si aspetta da loro, per l'intera facciata del portale. Ebbene, questo piacere, che appagando il mio desiderio m'avrebbe liberato da simili fantasticherie e che avrei cercato altrettanto volentieri in qualsiasi altra donna graziosa se qualcuno m'avesse chiesto su che cosa, mentre chiacchieravo inesauribilmente, tacendo ad Albertine la sola cosa a cui pensassi, su che cosa si basava la mia ottimistica ipotesi di vederlo assecondato dalla sua compiacenza, avrei forse risposto che essa era dovuta e i tratti obliati della voce di Albertine mi ridisegnavano intanto il contorno della sua personalità alla comparsa di certe parole assenti un tempo dal suo vocabolario, perlomeno nell'accezione che la fanciulla attribuiva loro attualmente. Affermò che il Stier era uno sciocco e alle mie proteste «Mi avete frainteso», replicò sorridendo. «Volevo dire che è stato uno sciocco in quella determinata circostanza, ma so benissimo che è una persona di prim'ordine». Analogamente, per alludere all'eleganza del golf di Fontainebleau, osservò «È il massimo della selezione». A proposito di un duello che avevo sostenuto, disse dei miei testimoni «Sono testimoni a postissimo». E guardando la mia faccia confessò che le sarebbe piaciuto vedermi con un bel paio di baffi. Addirittura si spinse, e e le mie chance mi parvero allora cospicue, sino a constatare, con un'espressione di cui soltanto un anno prima l'avrei giurato ignorava l'esistenza, che non vedeva Giselle da un certo lasso di tempo. Non che Albertine non possedesse, già a Balbec, un adeguato bagaglio di quei modi di dire che svelano d'acchitto l'appartenenza a una famiglia agiata e che le madri cedono anno dopo anno alle figlie, così come, man mano che diventano grandi, affidano loro, nelle circostanze importanti, i propri gioielli. Ci si era accorti che Albertine aveva smesso di essere una bambina il giorno in cui, per ringraziare un'estranea di un regalo, le aveva detto: «Sono confusa». Madame Bontemps non aveva potuto trattenersi dal lanciare un'occhiata al marito, che aveva esclamato: «Per Bacco, va per i 14!»